Scusa, Leonardo, guarda un momento a me. No, una cosa semplice, facilissima. Termometro, facilissimo, no? Un termometro è una cosa di vetro, mercurio, sì. Tutti i numerini dei serve per vedere se c'è la febbre. Metto qua su, bravo. O in bocca. Se, allora, se il mercurio arriva 35, no? Debole. Debole. Guarda me. Debole. 35, debole. 36, normale, su tutte le lineette, 36 e mezzo, 36 e 4, puoi avere 37 meno 1. 36, normale, 37. Media. Guarda rosso, me. Rosso. Guarda me. 37 già rosso. Rosso, sì, c'ha avuto la misurella. 37 rosso, un po' di febbre. 38, ancora un po' più di febbre. 38 devi restare a casa. Non esci perché è freddo, una cosa. 39, 40, 41, 42 rossissimo. Sì. Grave, cioè ospedale, capito? Una misura, quant'è? 39 e mezzo, per carità, ospedale, e serve che può fruttare qualcosa. 35? Esatto, 35, fiacco, debole, cioè mi sento, tengo genere fanile. 38! 38, Leonardo, 38, devo, 38 l'ha detto prima, ma è febbre, 38 c'è la febbre. Vabbè, grazie, andiamo, vai, si va via, tanto non c'è verso, c'è verso. To Rock FM. Ed è sempre un piacere all'interno della nostra trasmissione parlare di capolavori della storia del rock. Quest'oggi il test verteva su una canzone contenuta in Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band, ovvero Lucy in the Sky with Diamond. Forse fu... Forse fece scalpore perché parlava di amore libero in maniera ben poco convenzionale, come ipotizzava la soluzione A? Dispiace, ma questa non è la risposta giusta. Parlavano di amore i Beatles, ma non di amore poco convenzionale. Ma sì, anche forse, non in quella canzone. Parlava allora forse, come ipotizzato nella soluzione B, di marijuana? Ahimè, non ci siamo. E allora ecco là le iniziali del titolo, Lucy in the Sky with Diamond. In teoria facevano riferimento all'LSD, ovvero l'acido lisergico. Segnaliamo però che John Lennon in persona affermò che l'ispirazione del titolo venne da un disegno di suo figlio Julian. In questo disegno si vede una compagna di classe di Julian che passeggia in un cielo pieno di diamanti. Da qui a dire che i Beatles non avessero mai provato l'LSD, il passo è molto lungo. È molto lungo, un po' l'avevano provato. Certo. Ma sì, certamente avevano fumato marijuana, questa è una testimonianza di prima mano. Il gruppo lo ammise quando ricevette l'onorificenza MBA e si fecero uno spinellino nel bagno della regina. Della regina. Ricordiamo, va bene. Bene, allora cosa succede se hanno risposto esattamente i nostri radioascoltatori e radioascoltatrici? Bravi, avete due punti per la vostra prossima patente da vero rocker. E se ce l'hanno già? E se ce l'hanno già, possono essere orgogliosi di tenersela nel portafoglio. Ma non solo, possono ambire al passaporto di Vero Rocky, il passo successivo. State lì. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Rocking horse people eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you train in a station with plasticine pauses with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile, the girl with kaleidoscope eyes. Traku, traku. Lucy in the sky. Lucy in the Sky with Diamonds. Che meraviglia, Beatles, 8 e 35 minuti primi. Non so se notate come da pane, burro e rock and roll non ci facciamo scappare ogni minima occasione per parlare di LSD in maniera veramente anacronistica, come piace fare a noi. Questa è la nostra diretta, la colazione più rock attualmente in circolazione, ultima mezz'ora di diretta nella quale da scaletta intravedo purtroppo una telefonata intercontinentale. Potremmo tornare a connetterci con il Giappone, mentre ricordo la campagna di solidarizzazione cosa potete fare per pane, burro e rock and roll e non cosa PBR può fare per voi. Noi stiamo sul pezzo dei calendari, ragazzi, non ci si molla. Vogliamo studiare il fenomeno, sgusciarlo dall'interno e ribaltarlo tagliando le gambe al sistema. Queste sì che sono parole da utilizzare all'interno della nostra trasmissione. Siamo qui. Chissà cosa accadrà, lo scoprirete solo ascoltandoci. Intanto vi gustate anche un bel Marillion. È dura la vita, ragazzi, ma se l'affrontiamo insieme col rock and roll... Ya famo, ya famo! We'll be right back. Punch and Judy, i Marillion sulle frequenze di Rock FM. Ho sempre un po' di timore perché qua lanciamo le idee e poi ce ne pentiamo subito dopo. Entriamo nel reparto softcore di Pane, Burro e Rock and Roll. E scatta quindi il bollino rosso. Chiediamo ai piccoli avventori di Rock FM, o meglio ai loro genitori, di cambiare stazione radiofonica, perché finalmente passiamo al reparto delle donne nude. Ciao Luca! Ciao Ariele! Grazie Luca, il nostro radioascoltatore edicolante di riferimento di Campi Bisenzio. L'obiettivo, l'ho più volte ricordato, ammazzare le vendite dei calendari softcore, perché noi siamo contro. Settimana scorsa vi abbiamo denudato, scusate, Nina Moric. Quest'oggi cosa facciamo, Luca? Allora, oggi t'ho trovato una bionda. Sì. Che si chiama Cherie. Ma come l'ai... Perdonami, ma è come l'aiutante di Chuck Bird, il programma che ci precede. Si chiama Cherie. È un nome da sbogliare lì. Ma e che cosa fa sta Cherie? Praticamente sarebbe, cioè, penso l'abbia lanciata l'agenzia e ha lanciato anche Vanguard. Ah, quindi è parte di questa agenzia, diciamo. Tipo Schicchi, se non ricordo male. Esatto. Storie di è una porno diva allora. Ma non so se fa anche la pornattrice o se è soltanto spogliarellista. Senti, mi raccomando, non esagerare, eh. Com'è? Le 12 mensilità come stanno? Allora, diciamo, allora, innanzitutto è tutta naturale, a differenza della Moric. Oh, bravo Luca, così mi piaci. Perché la Moric un pochino, dai, con quei labbroni. Certo, quindi una biondina, una signora nessuno però. No, per ora sì, abbastanza sconosciuta. Ti sento schierato a favore della biondina, Luca. Ci sei già affezionato un po'? Ci sono già affezionato, è da ieri che me la guardo. Per prepararsi alla rubrica, ovviamente. Ovviamente. Bravo. Che mese andiamo a scegliere, Luca? Allora, ci avrei... novembre. Novembre. Chi l'ha detto che non si possono vedere le donne nude alla radio? Luca, arrapaci come non mai. Vai! Allora, stamattina se le arrapo veramente. Aia, vai, se si può, non esageriamo, Luca, per favore, vai. Allora, divisa è bella. Oh, bene. Natura, abbiamo detto. Veramente una bella figliola. Ok, occhi, dai, facci sognare, occhi. Occhi marroni, sì. Castani. Ma tu dirai, che ce frega degli occhi? Capelli. No, vabbè. No. Hanno la sua importanza, dai. Biondi. Siamo proprio materialisti. Biondi lunghi. Capelli biondi lunghi, oh. Mesciati. Mesciati, sì. Dov'è la ragazza? Dov'è? Allora, la ragazza è praticamente in un bosco. Oh, l'archetipo. Sì, un bosco. E, allora, di seno ci avrà una terza. Ragazzi, una Luca, terza... Luca è preciso. Non esagerare, una terza. Una terza abbondante, naturale. Naturale. E ne abbiamo la certezza, perché Luca sì, lo sì, sa. Sì, sì, sì. Una terza naturale, sì, col bosco, l'è tutta ignuda? È tutta ignuda. Porca vacca. Sì. E... No, non andarmi, per favore, Luca, ti conosco, eh. Non andarmi sul... Allora, diciamo, scendendo, sì. Parte c'ha delle gambe chilometriche, oh, dei piedini da fata con i French. Bravo, piedini, unghie truccate, unghie senza nulla. Esatto. Truccate con i French. Che è il French? Come? Che? Non so. È praticamente lo smalto bianco in cima. Ah. Scusa, io sto un po'. Non mi son, ultimamente non me li faccio i piedi, non so. Me li sono per col French, fantastico. Tutto il bosco, ma c'ha anche gli alberi davanti. C'ha gli alberi, sì, e praticamente. Posa, Luca! La posa è. Diciamo. Ammicca! No. Come spiegare? È praticamente con le gambe accavallate. Aia. Ma è seduta? Però, sì, è seduta. È tipo. E su cosa è seduta? Con le gambe in croce. Su un masso. Su un masso? Ai. È archetipo. E dove si incrociano le gambe. Aia, ho capito benissimo. Bosco, sassi. Luca, ci hai fatto sognare. Viva Cherie di novembre. Non andate a comprare il suo calendario, tanto ve l'ha già fatto vedere Luca. Ciao, caro. Ok, grazie. The Rolling Stones, Stir Me Up. Ragazzi, è ufficiale, questa trasmissione radiofonica è un disastro. Qualsiasi obiettivo ci prefiggiamo viene distrutto nel giro di pochi secondi. L'impegno profuso per costruire rubriche perfette va in fumo nel giro di pochissimo. È uno scandalo. Cioè, i commenti dedicati alla rubrica contro il calendario ci remano contro. È ufficiale. Ringrazio l'officina genovese che mi segnala: è deciso, state avendo l'effetto contrario, qui in officina siamo già tutti belli infoiati della biondina. Il nostro obiettivo è quello di non farveli comprare il calendario, non di farvi venire l'acquolina in bocca o dell'altro, e sono un signore. Saluto anche l'amico milanese che scrive: com'è bello toccarsi in tangenziale, grazie Luca, anzi grazie Cherie. A tutti voi maschietti, rinnovo l'appuntamento a domani, quando con Rosy passeremo ai maschi nudi. E vi voglio sentire anche lì, ok? Ah, che disastro, ragazzi. È un vero disastro. Solo le cartoline postali sono andate bene. Cioè, si è capito il messaggio, è andato. Tutto il resto va veramente a carte 48 nel giro di poco. C'è troppa inutilità in quello che facciamo. Credo sia questo il problema. Vabbè. Telefonata con Tokyo? Sì. Ma tra pochissimo, il tempo di gustarci Play the Game Tonight. Questa è Rock FM, baby. Kansas. The songs be playing. Caro Freak, di nuovo appuntamento con Rock FM All Over the World, il nostro sì. gemellaggio con la radio giapponese. Straordinario, lo sguardo sul mondo di pane, burro e rock and roll. Il buon Spadino, sento, già sta componendo il lunghissimo numero per connettere Milano a Tokyo. Chissà chi ci risponderà quest'oggi. Fremo, vuole chiamare lei Tokyo? Ma quasi quasi ci provo. Tokyo! Radio, oh, Tokyo! Welcome! Sulle frequenze di Rock FM, benvenuto! Con chi abbiamo il piacere welcome. Quest'oggi di parlare? Welcome! Ariele, Fregatori, Santa! Io sono DJ Tetsikatsu! Come scusi? Adesso no. Tetsikatsu! Tetsikasu? Interessante, interessante. Chissà se ha anche un significato, DJ Tetsikasu. Anche in Giappone il significato è persona di affidabile e di grandi principi morali. Oh. Ma è un piacere il gemellaggio Italia-Tokyo. Rock and roll 24 ore su 24 e vi vedo! Saltiamo subito al sodo, ci faccia ascoltare il brano di quest'oggi. Sì, vogliamo conoscere la... Numero uno, creativi da rock and roll, Cacchio Radio Tokyo, Sake Wasabi! Ed ecco che parte il gruppo Sake Wasabi. Mi ricorda un po' Freak, sa quando si va al ristorante, una pietanza, Sake Wasabi. No, Sake Wasabi sì. vuol dire io infilo grosso tubo da 12 in posto dove non batte, sollevate! Grosso tubo da 12? Abbiamo capito bene? In posto dove non batte, sollevate! Ah, ho capito, è un pezzo molto hard, mi ci direi. Sembra così heavy metal, sentire... Heavy metal, sì. Nippon heavy metal! Anche se senza offesa dalla sonorità, come al solito non sembra, il titolo invece del brano, via? Sake Wasabi Do! Quindi uguale al nome del gruppo? No, vuol dire ai, quanto fa male grosso tubo del 12, dove non batte... Non si sta nemmeno prendendo sul serio, DJ Tetsikasu, mi perdoni, ma stavolta sta veramente esagerando. Esagera. Numero uno di classifica Tokyo. Sì, restiamo dell'idea che questo gran heavy metal nipponico, insomma. Sì, è un po' strano, è un po' diverso. Come? Non piace. Non riprendiamo la solita storia. Bello. Piace tantissimo. Interessante. È già non piace. No, non iniziamo. Non faccia come gli altri. Non iniziamo con la solita storia, eh. Si trattenga, Tetsikasu. Non piace. Ancora questa storia. No, ma uno potrà esprimere una perplessità. Pronto. Ma Anna, è caduta ancora la linea. Non capisco. Ma a me questi collegamenti con Tokyo, onestamente. No, però bisogna aprirsi verso il mondo. Io ci darei un taglio. Di che tipo? Profondo? Può essere. So I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you Traco, traco, traco, traco, tra The Kinks. Questa è la fine, amici. Il nostro edicolante di Campi Bisenzio ha avuto... si è pentito via SMS della rubrica. No, Luca, sei in squadra con noi, sei in una botte di ferro, stai tranquillo. Ha paura che gli diano poi del maschilista. Stai tranquillo, ti difenderemo a spada tratta noi. Resta con Pane, Burro e Rock and Roll, vedrai, non te ne pentirai. Diventerai l'edicolante di culto di Campi Bisenzio. E intanto andiamo con la sigla, che è meglio. Ci siamo giocati anche questo giovedì. Ci si risente domani se lo volete, qua dalle 7 alle 9. Pane, burro e rock and roll. Pane, burro e rock and roll. La miglior colazione in circolazione. La tua colazione rock. Quella buona che dà assuefazione. Pane, burro e rock and roll. Con l'Ariele, Spadino e Roberto Fricantoni. Cosa volete di più? E te, Mister Trombetta? Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Buongiorno a Marco Garavelli. Buongiorno. Sai che non ti ho mai parlato di cosa faccio questo weekend? Non no. Te l'ho mai detto, di solito no. Lo faccio sempre in questo momento. È perché un po' mi vergognavo, ma ho un problema. Posso parlartene? Così. Di fronte a tutti o in ma privata? Sì, ma ho sempre detto mettiamo i miei problemi. Mettiamo in tavola ma tutto, sì, che vai. Vado a registrare un video a Foligno, così. E con la persona di DJ Ariele Mister Granca, Mister Granca? No, con okay. I Pay. Facciamo una versione di Pet Sematary dei Ramones. Ah, nuova quindi? Sì, sì, un brano nuovo. Ma il problema è che il video è fatto da zombie. Cioè, facciamo gli zombie. Sai qual è il mio problema? Che mi hanno detto due Sei settimane già fa... Sei zombie così? No, no, due settimane fa mi hanno detto Ariele, mi raccomando, le lapidi prepararle tu. Io non le ho ancora preparate e le devo fare entro domani. Secondo te così d'amblè come fa... Cioè, ho pensavo al polistirolo. Ho anche solo il cartone. Pieno di cartoni qui nel cortile. Ma marroni? No, devo farle bene. Ah, le pitture, dici? No, secondo me polistirolo, un po' di spray grigio. Vabbè. Gli metto sopra i nomi. Polistirolo qua dove lo trovi? Qui siamo nel centro, ma è difficile siamo nel trovare centro della cose. Metropoli, esatto. Ma quando uno vuol fare una lapide... Quando vuol cercare il polistirolo, dove va a trovare? Perché prenderla vera costa troppo. Non ci penso nemmeno. Beh, guarda. Va bene, magari... Penso che quel momento sia, e spero, lontanissimo. Mi è venuto in mente adesso, gli amici che ci ascoltano da Massa Carrara, magari ci hanno, sai che lì... Però è pesante, dici passo di lì e... Passo di lì, raccatto un poi il furgone non si muove più, 12 kg di marmo di Carrara. Va bene, Garavelli, buona giornata. Grazie. A domani. Ciao. Ciao, Rogna. Ehi, ma cosa che ci hai disegnato in testa? Dove? Cosa? Qui, guarda, c'hai un tondino giallo e nero disegnato sulla tempia. Ah, quello. Sì, un nuovo esperimento. Mi hanno detto che si chiama crash test, sì, una roba figa comunque. In pratica, mi fanno fare un giro su una giostra velocissima. E poi cosa succede? E poi non so, però mi hanno detto che vado in un bel posto pieno di topine dopo l'esperimento. Lo chiamano il paradiso della topa. Maledetto Rogna, sempre a te le cose fighe. A me il crash test non me lo fanno fare. Mi dispiace, se vuoi metto una buona parola con gli umani. Grazie.